primo intervento è già previsto, pertanto il programma il professor senatore Fulgenzio Loretta. Sicuramente aver partecipato vuol dire aver reso più difficile perché come si fa adesso dopo queste questa visione passare allo stato del potere nuovo. Però io avevo posto un testo di 15 cartelle, comunque non ci sarebbe stato sempre un soggetto di legge. Poi vedremo. Sicuramente riconosco le cose che ha detto che lo spira. Non è in tutte per la verità. Io non ricordo che l'uso della parola moderno fosse che intendesse il significato di organizzazione, intendeva il significato di non confusione con lo Stato. Di qualsiasi. Sicuramente per i giovani va considerato che pur la provenienza dalla stessa università eppure con gli stessi anni di corso, però tra Indiana Novi, che l'ha messa in testa Roberto Ruffini, Piero Schiera, che pure ha fatto la facoltà di giurisprudenza, se non ricordo male, e sottoscritto c'è una diversità di scuola, tra virgolette, quantomeno di maestri, come si usava a dire. Adesso delle corridoi del Senato della Repubblica il professor Viglio dice che sono suo allievo, ma io ancora tuttora preciso che non è esatto, semmai sono stato io del professor Benvenuti, anche se sicuramente avevo una comunità storicamente determinata. Allora io penso di fare una cosa, venire anche incontro alla richiesta di Angelo Benedetti, se non vedete, vice del seminario. Prescindere da quello che avevo pensato di dire sullo Stato moderno 25 anni dopo, invece dirvi alcune cartelle finali che mi erano state suggerite dalla lettura del libro di Paolo Rossi, così parliamo un momento anche degli storici del diritto. A meno che io non lo abbiate già fatto in questa sede, di esaminare questo libro da questo punto di vista. Vi leggo solo poche cartelle, sono quelle punto finali che avevo di questo riguardo. Stato concetto manifesta tuttora una capacità espansiva che dovete fare riflettere. Mentre gli storici italiani discutono con i colleghi statunitensi, appunto, si è detto prima, sempre più interessati sull'origine dello Stato, giustamente si è rinunciato in quel caso all'aggettivo moderno, se si possa cioè collocare in Italia nel 400, dagli storici del diritto più autorevoli, il Medioevo, o meglio, l'alto Medioevo, viene connotato per difetto come un ordine giuridico senza Stato. Preceduto, senza dubbi sui termini, dallo Stato romano e dallo Stato imperiale. E seguito, anche qui senza dubbi, stava stando. In diretta polemica con gli storici del diritto e gli storici non giuristi italiani e tedeschi che hanno parlato appunto negli anni 50 di Stato dell'Alto Medioevo, si spiega Paolo Grossi, che dal V secolo all'XI e fino al XIV, quando sorge la vocazione allo Stato, si perde come mai prima e mai dopo la percezione di una possibile distinzione tra privato e pubblico. Né al Regno Longobardo in Italia, né al Visigotico in Spagna, come stese Donatubi, compete, dice, la qualifica di Stato. L'assenza dello Stato dal grande processo di formazione della civiltà liberale non è un artificio verbale, ma attualmente primo prezioso strumento di comprensione per capire al diritto medievale il segreto della sua fisionomia più riposta, per individuare la pietra angolare di tutto il suo edificio. Ripeto il soggetto, l'assenza dello Stato. È difficile non consentire, quando si sia inteso lo Stato, come peculiare forma di organizzazione del potere storicamente determinata che senza precedenti si avvenne in Europa nell'età moderna. Semmai per la stessa ragione può suscitare qualche reazione, come vorrebbe suscitarla in noi, la sicura definizione dell'impero romano come Stato e su questa falsariga il parallelismo tra lo Stato romano e lo Stato moderno, della cui esistenza e consistenza storica e storiografica sembra non condividersi alcuna incertezza. Neanche lo Stato viene assunto come concetto universale, valido per una realtà che può essere a sua volta universale. Leggo una serie di citazioni. Soggetto politico forte, incarnazione storica di un potere politico perfettamente compiuto, inattaccabile patrimonio dell'integratore, da proiettarsi in chili diversi e lontani, non come modello di imporre ogni cosa, ma per misurare e segnare analogie e diversità, assenze e presenze. Solo che è un'assunzione in negativo. L'età moderna, con un processo lento ma crescente, dal 300 in poi, vive della presenza sempre più ingombrante di questo soggetto politico, così ingombrante da averlo protagonista della sua vita associata. Lo Stato, nella nozione consolidata dopo il Medioevo, è, cito sempre, realtà politico-giuridica rigorosamente unitaria, sul piano materiale, effettività di potere in tutta la proiezione territoriale garantita da un apparato centripeto di organizzazione e coazione e sul piano psicologico una volontà totalitaria che tende ad assorbire e a far sua ogni manifestazione almeno intersoggettiva. Sempre più ingombrante, dunque, non farebbe esserci crisi dello Stato tra 800 e 900. La negatività concerne ancor più lo Stato liberale, con cui è instaurata l'assimilazione. Lo Stato di sempre ha capito la rilevanza del diritto, di tutto il diritto, per il compimento dei suoi scopi totalitari. E lo stesso atteggiamento di fondo si riscontra sia nello Stato romano, tramite la giurisprudenza, sia nello Stato liberale moderno. Dove, continua la citazione, il problema della produzione giuridica è sottratto ad enti diversi, riservato allo Stato stesso e rivolto nella quasi sua interezza nell'unico canale obbligato della legge espressione della volontà esclusiva del macrocosmo Stato. Questo è Paolo Grossi. Il profano, dico il profano perché il libro è dedicato programmaticamente al profano, il saggio è specificamente dedicato, potrebbe chiedersi se non sia un po' troppo idilliaca questa rappresentazione dell'ordine giuridico medievale, in cui lo svincolo del giuridico dall'abbraccio condizionante del politico, proprio citando, il recupero del giuridico a veste appropriata e congeniale del sociale consente un diritto che non è voce del potere e non collude col potere. È, al contrario, emanazione di forze profonde che stanno al di là e al di sopra del potere. Il potere, dico io, che condiziona la vita degli uomini, non è solo quella delle istituzioni politiche e del loro titolare. Sarà vero che la divisione dei poteri classica è principio tutto moderno, come dice che la civiltà moderna urbanizzata prima di appigli religiosi alla disperata ricerca di garanzie formali disperate assume al fondamento stabile il principio moderno che assume al fondamento stabile della propria vita politico-giuridica ed era invece principio totalmente ignoto e medievale che in una visione integrale delle dimensioni civile e religiosa erano appagati da garanzie più sostanziali, cioè che sostanzialmente vincolavano e indirizzavano gli investiti di potere. Sarà vero, ma investiti di potere dovevano esserci, di conseguenza poteri dovevano esercitare, forse non li esercitavano soltanto a favore degli altri, forse li esercitavano anche a favore se stessa, anche come lui. Lo Stato, insomma, non può equivalere ad assenza di istituzioni politiche. Per il tecnico, diciamo così, per contrapporre al profano, che volesse disattendere il consiglio dell'autore, il problema però è se una definizione possa darsi per sottrazione retrospettiva, se a un antistorico pregiudizio storiografico pro-Stato non possa sostituirsi e sovrapporsi adesso il pregiudizio storiografico antistato che sarebbe proprio antistorico. L'approccio adottato in effetti qualche turbamento lo provoca. A Guido Astuti, storico del diritto che descrisse la formazione dello Stato moderno in Italia nel 67, sul secolo XV e XVIII, fu imputato di avere usato le categorie stataliste dell'8-900, non esitando a dichiararlo espressamente in premessa, senza mettere in dubbio, lui non mise in dubbio, la correttezza scientifica dell'operazione che aveva compiuto. Adesso però l'ordine giuridico medievale viene eletto alla luce della proposta teorica squisitamente pluralista, torno al libro Paolo Grosso, di uno dei più grandi giuristi del Novecento, Santi Romano, di cui viene utilizzato, citando naturalmente, Santi Romano, l'ordinamento giuridico che è del 1918. Lo storico del diritto, infatti, non esita a far sua, cito testualmente, quella ipotesi metodologica che rivela la sua fettività anche sul piano storico-giuridico. Dico che Paolo Grossi, nelle citazioni che vi ho descritto, assume Santi Romano come punto di partenza. Alla società medievale, che è una società senza Stato, lo stesso Romano del resto ha fatto esplicito riferimento come a un appropriato terreno di delitto, pur dopo il fortunato libretto, l'ordinamento giuridico, dando ancora prova di statalismo psicologico, sia i filosofi del diritto che accettano la proposta con entusiasmo fornendo le forme filosofiche, sia addirittura Santi Romano medesimo quando indossa le vesti del giusto pubblicista, da grandissimo cultore qual è del diritto positivo, sia soprattutto lo storico del diritto che per primo organicamente raccolse il messaggio romaniano, facendolo diventare lo schema interpretativo di tutta la giuridicità medievale. Ed è Francesco Calasso. Francesco Calasso leggeva Santi Romano con occhi ancora ammagliati di statalismo. Lo leggeva negli ordinamenti giuridici del Rinascimento medievale. le correnti. Perché in lui la conclamata pluralità degli ordinamenti è realtà condizionata dalla presenza dell'ordinamento per eccellenza. Basta per capire questo ed occorre una rilettura. Allorché dopo il crollo rovinoso delle solide incarnazioni precedenti è assente il grande burattinaio, il nuovo societario, il soggetto politico che tende a reggere tutti i fili, a fare dei vari centri sociali concorrenti, delle semplici brevemente da manovrare a piacere, finalmente il terreno così sgombro sembra fatto apposta per identificare l'ipotesi romaniana. Il diritto non più monopolio del potere è voce della società, non di innumerevoli gruppi sociali, ciascuno dei quali incarica un ordinamento giuridico. Realtà autonoma, contrassegnate da autonomia, come sottolineato appuntamente dallo stesso Chiudo, da tolto, da profano per l'ordine giuridico medievale. Ma potremmo ancora esserlo se gli storici maligni non giuristi avessero ragione, se lo Stato moderno non c'è stato in Italia, come asseriscono fino al primo 800, secondo le ultime notizie francesi, mi pare di capire, nemmeno fino al 1789, e se neppure per il 19 e 20 secolo fosse corretto parlare, come altri aggiungono, perché è ormai crisi dello Stato, come caratterizzare in tal caso l'ordine giuridico medievale, quale assenza dello Stato? Sarebbe imbarazzante per chi ha demolito lo Stato moderno immaginario dover demolire il nuovo Stato medievale immaginario, immaginato nella età della crisi dello Stato o della cultura di crollo dello Stato. Del resto, Stato o lo Stato sono entrambe categorie stataliste. La seconda, l'orrendo della prima. Applicarla significa vedere ancora dalla parte dello Stato anche il mondo che sarebbe senza Stato e rinunciare pertanto a qualificarlo positivamente in se stesso. La liberazione culturale, se mai avverrà, è per ora di là. E quindi non possiamo intervenire dall'interno, ecco, ma possiamo cominciare a parlare di tecnologia. Mi sentivo molto vicino a questo. Chitolini mi pare, ho visto un braccio. Sicuramente sul punto di Moretti, cioè questa assenza di categorie statali nell'interpretazione della storia d'Italia nella seconda metà dell'Ottocento. Ecco. Avevi fatto poi l'accenno viceversa alla storiografia sabauda. Io non ho visto questo libro di Lera, ma appunto razzolando un po' tra il lavoro di edizione di fondi e di scritture di storia dello Stato sabauda, ecco, lì mi sembra che sia moltissimo, cioè non solo Ricotti, ma anche per esempio i piani di Dionisotti, no? C'è una tradizione forte di sapere sulla dimensione regionale comporta in carcere all'autore italiana, ma potrebbe applicarsi invece alla verifica di un concetto di Stato su dimensione comunità. Non so se... Sì, non è molto forte, io ho accennato, forse mi consulta, ma ci vogliamo. Facciamo proprio battute brevi. Io butto fuori, sì, vero, ho iniziato a cenare un po', parla chiaramente, cioè usa chiaramente i termini della metodata che non si può. Non sa dove è, però insomma, cioè, non usa la forma, questo voglio dire, non c'è l'accostamento. E... Bianchi è un caso un po' di mezzo. Bianchi tanto non è dell'establishment istituzionale, sia per motivi politici che per motivi di provenienza. La sua storia, quella di motivazione che viene ascoltando dall'età 700, poi la fine del 700, è interessante per altri. Lì io ho trovato, credo sia la prima volta nella storiografia italiana, ad esempio, e comunque prima delle elezioni di Tocqueville, la formula rivoluzione industriale citata accanto alla rivoluzione politica francese come grande cambiamento epocale che viene a definire una storia nuova. Cioè da lì comincia la grande rivoluzione politica in Francia e la rivoluzione industriale, perché prima delle elezioni di Tocqueville non è nel lessico comune degli storici, anzi stenta ad entrare nel lessico comune degli storici, è già vista, è già segnalata da Bianchi. Allora, l'esempio forte è come costruzione di un modello di storia e di monarchia come storia. Però anche lì, se l'ipotesi è chiara, l'articolazione interna del discorso, se uno va a vedere su cosa ci si crede, è in gran parte la storia di cronaca politica e dinastica, quantitativamente, con casomai qualche accenno interessante a fenomeni, anche quelli tematizzati più tardi. Ricordo, mi accenna in paio di punti alla rifeudalizzazione, non usa la parola, ma è detto chiaramente che c'è una tensione nella storia di questa crescita dello Stato da 500-600 a un anno. Sì, tensione, non è un cammino lineare, quello è una costruzione del movimento, è interessante, ma è proprio sul piano proprio della oggetti concreti che si analizzano. Poi il discorso resta molto più tradizionale, insomma, cioè politica dei sovrani e politica estera, in grande parte. Quello sì, nasce da una tradizione di storia politica, l'uso degli archivi da parte di quella generazione storica, che poi ormai in studio ed era questo documentato, c'è quella famosa commissione dei tre baroni che è buono l'archivio della storia, con distruzione proprio materiale, di segni, di fonti, e quindi sì, certo. C'è la consapevolezza della tradizione amministrativa che l'ha generato, c'è anche un uso molto spregiudicato negli anni in cui il popolo Cipolla predicava la storia oggettiva sui documenti, quindi le induciamo. Quindi nella realtà poi le parlo della storia della storiografia quotidiana, la questione è molto più molto, diciamo, ma Firenze aveva lo stesso, e su documenti molto più nobili di quelli materici. C'era un forte, cioè il controllo reale sui documenti in Italia, quindi è una cosa che andrebbe ancora studiata città per città, perché non è fatto lì, c'è una risposta molto forte. Non discuto che Maranini poi scrive, con 5 citazioni fossero assenti dai specialmente, cioè, però ecco, non so, penso esperienze tipo quello di Giacinto Romano, comincia a scrivere in fondo la fine degli anni 80 se non sbaglio, e ha già in mente, cioè, un armamentario, un insieme di interessi, un concetto di autonomia, e qualche origine l'avrà in qualche modo sul voglio dire, il fatto che manchi una concettualizzazione forte, come c'è invece nell'area sabauda, credo non debba portare a ritenere che nella pratica storiografica, e forse anche a un livello inferiore nella concettualizzazione, credo non devo poter ritenere che tutto questa che non ci fosse qualche livello di consapevolezza nelle storiografie regionali, no? Il fatto stesso, se non sbaglio, dello scarto cronologico tra la storia della Cipolla e la storia di Rose sia limitato, indica che c'è in tempi brevi la coscienza della necessità di un qualche aggiornamento di una qualche revisione. Sì, sì, cioè, mi pareva che il tuo discorso fosse un po' troppo drastico, è vero che avevi in mente appunto come oggetto il concetto, diciamo, quindi, però forse analizzando tutti i singoli contesti regionali, perché sono quelli che poi vanno analizzati, il concetto credo che qualche elemento si possa fare. La revisione, sai, come ci vuole la stessa cosa che volevo fare. Per il timore di essere controllati organizzati, disciplinati da un'organizzazione della ricerca e da un equilibrio politico che poi non si sente in fondo pienamente. Sì. Cioè, ci vogliono 30 anni, ci dice 190 anni, siamo lì. Attenzione, c'è la scuola. Io volevo solo dire una cosa collegandomi al problema Savaura, no? Che è, perché mi interessa anche un po' questo qui, e anche svicolando rispetto agli storici generali, perché secondo me, per quanto sia difficile, insomma, nel corso dell'Ottocento, ricostruire percorsi interno-disciplinari, insomma, la riflessione storica, pure è un discorso che va fatto. È vero, non è accettabile, non è accettabile un'osservazione che vedrebbe già con riferimento al Piemonte, nella prima metà dell'Ottocento, intorno alla metà dell'Ottocento, un particolare interesse di tipo storico giuridico, come ci ha detto più volte Moscati, ma anche di tipo storico economico, come sembrerebbe mostrare Allora dico, questo qui ha senso o non ha senso? Cioè il fatto che proprio nella parte d'Italia che contemporaneamente, diciamo così, è più istituzionalmente costruita e contemporaneamente però è anche indipendente, a differenza del Quattrocento, ci sia una nascita di interesse di tipo storico-giuridico, storico-economico, storico-sociale, che in qualche modo va nella direzione di un oggetto di studio Stato, c'entra nel nostro discorso pure no? Assolutamente, però dal punto di vista della storia d'Italia, cioè qual è il posto di questi soggetti nella gerarchia delle significanze storiografiche, cioè quando si parla di storia d'Italia, si pensa in primo luogo a questo, che è una piena maturità di questa dimensione molto successiva e matura, come dire, è dovuta a una nuova cultura giuridico-politica che entra in campo e che fornisce la sperimentazione. Questo è un problema da risolvere, però tu prima, usando Hillary, hai dovuto ripetutamente sottolineare la dipendenza autodidattica o meno da Hillary, da questa problematica. Dicendo Hillary, come mai c'è la sensibilità? Non so. Io su questo voglio subito, perché sono profano davvero. Io conosco Hillary soprattutto perché siamo andati a notte. E la sua analisi dell'esperienza del governo popolare di Firenze è di una maturità sconvolgente. Cioè, Firenze non riesce a passare dalle tecniche del vecchio comune alle tecniche di un regime democratico moderno. Questo è proprio, cioè, non riescono ad essere partiti, è tutto lì, cioè, vede questa impossibilità tecnica ad una rappresentanza e quindi un'organizzazione, cioè, a me sembra che non un'analisi sconvolgente come. Ma ci sono, guardate, da questo punto di vista, se posso dire, qualche messaggio su Firenze, che è proprio che usa una terminologia che abbiglia. Cioè queste azioni, queste associazioni, queste divisioni, questa frammentazione che non trova un suo equilibrio e un suo sistema di garanzie, fa sì che prevalgano gli interessi nefasti, gli interessi di parte, sono i sinistra gli interessi di militi governanti. Impossibile raggiungere un equilibrio pacifico, lo si raggiunge con la soppressione di queste cose, lo si raggiunge con la fine. Ed è puramente miliare il meccanismo, cioè questo è il problema che si è evidentissimo, il problema che va in crisi quando non si riesce a impedire di prevedere degli interessi di parte in senso forte, gli interessi che diciamo sinistra e di è il meccanismo che è. Per cui qui lo stato moderno che è in mente lui è lo stato politico contemporaneo, il liberalismo teorizzato non è semplicemente lo stato amministrativo locale, quella è una frase. La tirannia è una fase necessaria di passaggio per uscire da una situazione che non riesce a fare. Per questo non si può simpatia lo scopo. Non è così. E poi dopo. Ecco, allora prima e poi dopo la. Velocissimo. Scusa, volevo fare sempre un'osservazione di questo genere. La difficoltà di questo dibattito deriva forse dal fatto che questi storici da Villari e anche della sinfonia riuscivano a studiare, a modellizzare la singola parte, ma non riuscivano a collegarla. Probabilmente per il fatto che alla fine dell'Ottocento almeno dei giuristi è molto evidente questo fatto, la base, cioè il primo elemento per qualificare lo Stato è la sovranità. Allora loro, nelle signorie, nel periodo 3-400 forse qualcosa vedevano, nel periodo 500 in poi non la vedevano più, eccetto la Savoia. Per cui, un libro di Carlo Ercole, Carlo Paolo, Carlo Pinto, tutto un inno nazionalista e così via, però è un libro che non riesce a parlare della storia d'Italia perché quegli stati sono dominati dall'estero e non sono sovrani. Allora, diciamo, i singoli modelli riuscivano ad essere costruiti, il comune, lo stato regionale, la tirannia, però una storia dello Stato come storia di una sovranità continua non c'era in Italia. Forse una parte della difficoltà che noi oggi abbiamo a costruire questa storia è il fatto che loro stessi non riuscivano a costruire. Anche il finanziamento di tutti, come potrebbe essere in parte Ercole, non riusciva a fare un libro dello Stato avendo poi parlato della sovranità, perché questa sovranità che si cominciava dall'autonomia, non dominio esterno, in realtà non c'era. Bene, passato. Sì, no, a Moretti volevo chiedere Regno di Napoli fuori. Non è che non c'è nulla, ma lì veramente fratrice, dell'Asis è storia puramente latina. Cioè, è uno sforzo trovare dentro lì una qualunque sistemazione intorno a numeri problematici evidenziati. Sono quelli che ho evocato, il bizantinismo, il romanismo, populismo. Ecco, dovendo fare un grafico, ecco, metterei il cesarismo come parentesi di grafici e poi sotto questi ulteriori esponenti, questi ulteriori elementi, perché credo che si possa ricostruire un sacco se la possibilità. Bonapartismo diceva questo. Quindi guarda la relazione alla seconda edizione del 18 di maggio, io credo che questo Marx lo avesse capito benissimo. E allora lui respinge quella che chiama frase scolastica il cesarismo, mentre del bonapartismo si fa teorico in quella e in altre opere. Dei grandissimi del XX secolo, Weber e Gramsci si muovono invece sulla lunghezza d'onda del cesarismo. Qui però il discorso lungo, può essere. Non so se la può pensare. Lo stile Gramsci è quello che ricordava, così sta passando, sempre Urzi. È abbastanza, queste sono opere indicative perché sono riassunti, no? Queste grandi storie che tengono conto della letteratura esistente. Da metà 300 lui scrive praticamente il sud esce dalla storia di pace, prende la preponderanza al nord, quello che può. Lì è in descrizione in termini di pura anarchia barbarale, basta poi leggere pagine su Giovanna II, eccetera, è fuori, non è più assimilabile a un modello politico. E queste sono, è la notata sul grafo, cioè quello che è autoritratto dallo stato degli studi corretti. È abbastanza indicativo. Di che anno è? Il libro sono in due edizioni, il primo di seconda e poi si è messo in 1902, la prima è